no la mano, presenze magiche, vestite di luce. Nell'aria sento la loro voce, in ogni luogo la città, tra mezzo ai vetri ne va. Ma i nostri mondi possono incontrare un sorriso che non mi vergogna di io tutte quante le vorrei amare tra mezzo vetri nei bar. Solo vivere d'amore.